avete vinto, più m'ha vinto a me che il suo estremo dolor. Già m'ha placato di Bajazet la morte. Non si dica che in odio del nemico io faccia guerra sino con l'ombre e con le figlie imbelli. Dona pace ad Asterio, la dono ai lene, e perché tutto spento con la fede di Ene il vostro incendio, al suo fido amator a voi lo rendo. Abbiate di mia man trono ed amata, così l'odio placato e resi amici cominceremo.